versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, buon inizio di settimana da Oscar Giannino, qui è la versione di Oscar in diretta da Radio 24, studio di Milano, 16:37 e 33 secondi, stiamo quasi battendo il record in ritardo! Vabbè, d'accordo. Allora, i fatti del giorno sono essenzialmente tre, come sapete. Non ci occuperemo di questi, ma ricordiamoli, si è tenuto ieri il referendum in Crimea e stamattina le truppe russe hanno iniziato ad accerchiare tutte le basi militari ucraine in Crimea, chiedendo ai soldati dell'Ucraina o di giurare fedeltà alla Russia di Putin o di arrendersi. Nel frattempo l'Unione Europea ha adottato sanzioni per 21 tra personaggi politici, consiglieri russi di Putin o esponenti dell'Ucraina filorussa. E vedremo quali saranno le reazioni russe da questo punto di vista. Io credo che bisognasse intervenire prima del fatto compiuto. Creato il fatto compiuto, credo che adesso andremo a un'escalation, perché Putin, che ha i massimi di popolarità, dovrà flettere i muscoli al suo paese. Forse era meglio tentare un approccio più rigoroso e vigoroso prima che si tenesse questo referendum. Seconda notizia del giorno, siamo in attesa dopo la nostra trasmissione di vedere a che ora ci sarà la conferenza stampa di Renzi a Berlino, l'incontro con la Merkel dopo quello di Hollande, vedremo che cosa avrà ottenuto. Io sono, devo dire, un po' senza parole all'idea che si faccia tutto questo polverone per passare da un deficit italiano quest'anno dal 2,6% al PIL al 2,8%, tutto questo per uno 0,2% in più, cioè soli 3 miliardi di euro, ma io non riesco a crederci. Vedremo se invece sulle regole europee cambierà qualche cosa di più. Terza cosa, questa la trovate sul giornale di domani. Nel frattempo i rapporti tra CGIL e FIOM sono al minimo storico, veramente. La segretaria della CGIL Camusso oggi ha detto: le opinioni di Landini, che è capo della FIOM, non sono quelle della CGIL. E vedremo che cosa questo vorrà dire. È un po' singolare, ammetteretelo anche voi, che la FIOM, che è più oltranzista, più dura della CGIL, abbia un buon rapporto con Renzi, mentre la CGIL della Camusso no. E si spacchino di fronte a questo governo, prima ancora di aver visto poi davvero il testo dei provvedimenti. Ma è una cosa che io non capisco, neanche questa terza. Nel frattempo oggi iniziamo la settimana con una cosa che facciamo sempre, o comunque spesso tentiamo di fare, quando ci scrivono gli ascoltatori segnalandoci casi di follia italiana, cioè di norme particolarmente invasive, incomprensibili, la classica contraddizione dell'eccesso contraddittorio della burocrazia italiana, noi diamo loro il microfono. E anche oggi vi invito ad ascoltare questa storia, perché è una storia emblematica dell'Italia che si fa male da sola con le sue norme, anzi con norme che nessuno riesce a capire che cosa davvero diavolo vogliano dire, e naturalmente fa male all'impresa e fa male al lavoro. Ecco, è con noi oggi pomeriggio una imprenditrice che ci ha scritto qualche tempo fa e sono molto contento di presentarvela. Si chiama Sena D'Accordi e ha 33 anni. Buon pomeriggio. Buonasera Giannino, grazie per avermi invitato, grazie mille. Allora, adesso lei ce la racconterà in 3-4 minuti, perché vale la pena, però questa è una storia di una multa INAIL, di una mega multa INAIL, per quello che producete e per la classe di rischio, come interpretare le norme vigenti della classe di rischio del tipo di cose che producete. Cosa producete voi? Allora, noi facciamo telai per biciclette da corsa in particolare, la nostra è un'azienda che esiste dal 1937, quindi quest'anno abbiamo 77 anni e da sempre facciamo il telaio per la bicicletta o la bicicletta completa, insomma, ecco, sì. È una classica azienda a gestione familiare, siamo artigiani. E la nostra vicenda inizia. Quanti lavorano nella vostra piccola impresa? Beh, adesso siamo una decina di addetti, negli anni ovviamente abbiamo dovuto ridurre il personale perché insomma la crisi sta mordendo forte anche in questo. Quindi la classica piccola impresa italiana ma specializzata. Sì. Esatto. E la nostra vicenda inizia nel 1999, all'indomani di un nostro trasferimento presso l'attuale sede produttiva, insomma più grande, più efficiente, eccetera, più moderna, riceviamo il sopralluogo da parte di due ispettori dell'INAIL, i quali all'esito di questo sopralluogo ritengono che la classe di rischio fino ad allora attribuita alla nostra azienda, che era del 30 per mille, non fosse corretta, senza peraltro specificare dove avremmo dovuto essere più correttamente, secondo loro, collocati. Fatto sta che noi riceviamo poi dei bollettini di pagamento dei premi INAIL tre volte superiori rispetto a quelli che avevamo pagato fino ad allora. Fino ad allora vuol dire per 20 anni. Ricordiamo, cioè, a chi non se lo ricordasse, naturalmente il premio INAIL da pagare per le imprese è quello relativo all'assicurazione per infortuni sul lavoro. Esatto, sì. In pratica come lo attribuisce l'INAIL questa classe di rischio? Lo attribuisce sulla base di una denuncia di attività che ogni azienda è tenuta a fare, anche la nostra. Noi dobbiamo descrivere fedelmente all'istituto che cosa facciamo. In base a questa descrizione l'INAIL decide qual è il rischio che i nostri lavoratori corrono. Fino ad allora, dal 79 al 99, 20 anni, le nostre denunce sono state costanti, lo sono tuttora. L'INAIL però attua nel 99 un ripensamento e, senza specificare, ripeto, dove avremmo dovuto essere collocati, inizia a farci pagare dei bollettini molto più alti. Dopo neanche un anno, poco più di un anno dal sopralluogo degli ispettori dell'INAIL, nel dicembre del 2000, il Ministero del Lavoro emette un decreto nel quale invece stabilisce che era corretta la vecchia classificazione, quindi noi torniamo a pagare il 30 per mille, quello che avevamo pagato per 20 anni. Nel 2003, quindi 4 anni dopo dal sopralluogo, ci vediamo raggiunti da una cartella esattoriale di 49.000 euro più sanzione e quant'altro, perché l'INAIL nel frattempo ci viene a chiedere la differenza di premio, cioè dal 30 per 1000 al 96 per 1000 sui 5 anni precedenti rispetto al momento nel quale è stato effettuato il sopralluogo. Ora mi rendo conto che la vicenda è un po' insomma tecnica, però in pratica, per ridurla in soldoni, succede questo. Insomma, l'INAIL ci ha detto quanto pagare sulla base delle nostre dichiarazioni. Le nostre dichiarazioni peraltro non sono mai state tacciate di essere mendaci da parte dell'istituto. L'istituto ha semplicemente effettuato un ripensamento e, a fronte dei medesimi dati, ha semplicemente pensato che dovremmo pagare di più, salvo poi ripensarci ulteriormente e dire no, andava bene quello che pagavate fino ad allora. Però comunque c'è stato un anno, diciamo così, di nebbia. Fate una cosa, pagateci anche per i 5 anni precedenti, perché la legge consente all'INAIL una quinquennale. E questo, quindi, però io non lo capisco, perché se nel frattempo l'INAIL aveva chiarito che la classe di rischio prevedeva un pagamento al 30 per 1000, come può lo stesso INAIL poi chiedervi 5 anni di pagamento invece a una tariffa più di 3 volte superiore? È quello che non capiamo anche noi, è quello che, perché siccome quando poi si viene raggiunti da una cartella esattoriale, a quel punto lì l'unico strumento che il cittadino e l'impresa ha per difendersi è opporre ricorso, e quindi noi questo abbiamo fatto. Speravamo, convinti anche a fronte di quella che, insomma, è configurabile come una sorta di interpretazione autentica alla nuova classificazione del rischio delle imprese da parte del Ministero del Lavoro, noi pensavamo che il giudice avrebbe capito, sarebbe stata evidente l'assurdità della vicenda e della contraddizione. Invece no, noi abbiamo avuto una sentenza di conferma della cartella esattoriale, quindi in pratica abbiamo perso in primo grado, perché il giudice ha stabilito che comunque... E il primo grado è arrivato, nel frattempo eravate già al 2008. Allora fermiamoci qua, una vicenda che comincia nel 99 e avete capito, l'INAIL decide a un certo punto di far pagare più di 3 volte, in presenza di una norma che però riconferma che era giusto il pagamento inferiore, ma l'INAIL dice no, continuate a pagare, anzi chiedetevi 5 anni, prima mi pagate la tariffa più alta, impugnativa, e arriviamo al giudizio di primo grado che stia nel 2008, in cui l'azienda in cui lavora Sena, d'accordo, che con noi perde. Adesso abbiamo 60 secondi però di informazione stradale, poi riprendiamo a narrare la storia. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:46 e 45 secondi. Immaginavo che arrivassero un po' di messaggi sui 3 temi che ho sfiorato prima. C'è un ascoltatore che dice su che basi Europa ed Obama dichiarano illegittimo il referendum in Crimea, sulla base del fatto che non si è tenuto secondo criteri che ne consentissero, dal punto di vista per esempio della presenza di osservatori dell'OSCE, un controllo di legalità internazionale, è avvenuto con presenza di truppe militari, e questo è noto, della Russia già presenti, e perché non offriva l'opzione no, perché le due domande del referendum erano: primo, volete voi annettervi alla Russia? La seconda risposta, l'unica altra opzione, era: volete voi separarvi dall'Ucraina, cioè modificare la Costituzione? Capite bene che è un referendum i cui presupposti non sono proprio quelli della trasparenza. A proposito, domani qui parliamo del referendum consultivo che è in corso volontariamente in tutto il Veneto per l'indipendenza dell'indipendentismo, a proposito di referendum, visto che nessuno ne parla, noi ne abbiamo già parlato un mese fa, domani ne riparliamo, perché hanno votato più di 470.000 persone nel fine settimana, su 4 milioni di veneti, quindi è il caso di parlarne. Io non capisco come mai nessun grande media italiano ne stia parlando. Poi un altro ascoltatore ci ha mandato un altro messaggio, questo è da leggere, sulla CGIL, dice questo ascoltatore: mio fratello e altre persone erano stati assunti in nero alla CGIL di Bologna per 4 soldi, e quando mio fratello ha chiesto di essere regolarizzato lo hanno cacciato con la minaccia che se avesse parlato lo avrebbero sputtanato, in modo che nessuno lo avrebbe più assunto. Ora, siccome di queste vicende all'interno della CGIL se ne sono occupate invece i giornali, sappiate che per questo secondo me i sindacati dovrebbero, come i partiti, essere sottoposti all'adempimento costituzionale della legge prevista per i sindacati dell'articolo 39, mai applicata, per consentirne la registrazione e stabilizzare le garanzie non solo per chi ci lavora ma anche per la vita interna dei sindacati. Questo non è mai avvenuto, questa è la ragione per la quale per esempio i sindacati sono liberi di non pubblicare il bilancio consolidato, compreso quindi di conto economico e attivo patrimoniale. Noi non sappiamo quindi a quanto davvero ammontano per esempio il totale dei contributi pubblici che ricevono. Ne parleremo in un'altra puntata, ma riprendiamo la storia di questa vicenda del paradosso italiano dell'INAIL, che malgrado la legge reinterpretata dica che bisogna pagare una certa classe di rischio per l'assicurazione all'infortunio sul lavoro, cioè il 30 per mille, chiede invece, e arrivano cartelle esattoriali, nomine date 96 per mille, cioè più di 3 volte tanto. Eravamo arrivati al giudizio di primo grado, che però vede l'azienda, cara, se ne d'accordi, vede perdere nel 2008. Poi esatto. Cosa succede? Noi ovviamente restiamo sbigottiti e proponiamo ricorso in corte d'appello. Stavolta insomma siamo un pochino più delusi obiettivamente, e anche l'appello purtroppo ci vede soccombenti. Quello che mi piace evidenziare, perché in questo caso devo dire che l'INAIL insomma è stata anche estremamente aiutata dalla magistratura in questo caso, è che i giudici hanno sì detto, gli illustri giudici della corte d'appello di Firenze, che sì è vero c'è il DM 12/2000, insomma si configura come una interpretazione autentica, però c'è comunque un anno di buco e tutto sommato l'INAIL non sbaglia, gli ispettori non sbagliano a considerare che un telaio da bicicletta da corsa, che è un manufatto il cui peso è inferiore a 1 chilo, quindi una forma di pane, è più leggero il prodotto che facciamo noi, è equiparabile, espone al rischio il dipendente, l'operaio, allo stesso rischio di colui che lavora per costruire un manufatto come un cancello, un parapetto, un'inferriata. Insomma, ecco, questa è l'assurdità. Un telaio da bicicletta espone il lavoratore al medesimo rischio al quale è esposto colui che realizza un'inferriata o un parapetto. Voi capite, aspetti un secondo, perché io su questo vorrei essere chiaro con chi è a casa. Il giudice di secondo grado rientra nella interpretazione delle classi di rischio dei diversi manufatti prodotti. A che cosa serve allora la classificazione ufficiale se poi il giudice ne fa una valutando lui i manufatti, equiparando un tubo di un telaio di bicicletta a quello di un cancello? Ma questo è un altro paradosso con cui attraverso la legislazione in Italia noi non copriamo affatto la certezza normativa per il cittadino, perché poi le corti, che pure non dovrebbero centrare nulla col potere normativo, sia con quello legislativo sia quello regolamentare, invece poi di propria spontanea volontà ci mettono del proprio e aggiungono. Ecco, va bene. Allora, dopo il secondo grado, nel frattempo le cartelle poi il monte interessi da pagare continua a salire. Sono esorbitanti, sono ai limiti dell'usura, il nostro credito oramai sfiora 100.000 euro. Poi devo dire che la nostra vicenda offre molti spunti di riflessione. Possiamo parlare di lunghezza del processo, di giusto processo, possiamo parlare insomma di una magistratura che non esito a definire partigiana, perché comunque ha confortato l'INAIL in questi due gradi di giudizio. E per quanto riguarda l'istituto, devo dire questo, che nei nostri confronti si configura senza dubbio anche un trattamento di forte iniquità, perché comunque anche diciamo il trattamento che ci è stato riservato è sicuramente sperequato rispetto a quello riservato ad altre aziende che in Italia producevano e producono manufatti simili al nostro. E quindi ecco, a me pareva di aver capito nella lettera che mi aveva mandato che malgrado poi tutto questo iter, l'organo di valutazione regionale toscano tecnico dell'INAIL, che la Contarp, ha confermato formalmente che in realtà era giusta la classe per la quale pagavate meno, o no? Infatti è così, cioè l'assurdità. Quindi siamo anche vicenda in presenza di diverse branche dello stesso istituto che hanno un'opinione così diversa, che una vi dice avete ragione voi e l'altra invece fa levitare gli interessi del cartello esattoriale. Esattamente. tutto questo, devo dire, è emblematico, perché comunque l'INEL è comunque un ente dello Stato o del parastato, voglio dire, questo è come vengono aiutate di fatto le aziende in maniera, diciamo così, nascosta, al di fuori di quelle che sono poi le dichiarazioni di intenti, insomma, di chi gestisce poi la cosa pubblica. Poi di fatto, se si va a vedere l'esperienza dei singoli, si trovano di queste realtà. Quindi io sono certa che di non essere stata l'unica alla quale è stato riservato un trattamento sperequato di questo genere, e vorrei anche dire, insomma, che è vergognoso che un ente come l'INEIL gestisca in maniera non trasparente e così anche, devo dire, iniqua i rapporti con le aziende, un istituto che dovrebbe tutelare, insomma, la sicurezza dei lavoratori. Ora, per completezza, per chi ci ascolta, noi naturalmente, facendo il nostro dovere giornalisti, ci siamo rivolti all'INEIL, che ci ha promesso una nota di qua di là, non l'abbiamo ancora ricevuta. Naturalmente noi siamo qua anche per ascoltare che cosa l'INEIL, avendogli segnalato il caso, ci dirà, e per dirlo poi agli ascoltatori. Sta di fatto, adesso quanto dovete aspettare per la Cassazione? Ma guardi, allora, il ricorso per Cassazione è stato depositato nel marzo del 2001, quindi sono già 3 anni. 2011? 2011, sì, mi scusi, sono già 3 anni e quindi non sappiamo se sarà accettato o meno. Ovviamente, insomma, siamo consapevoli del fatto che la porta è molto piccola, perché, insomma, la Cassazione è un giudice di legittimità. Dice un nostro ascoltatore: avete provato a regalare una bici al giudice o agli agenti dell'INEIL? Magari si risolve. Guardi, sarebbe stata una strada molto italiana, peraltro. No, ma si figuri, è una battuta dell'ascoltatore, non diceva sul serio, ovviamente. Certamente, no, in effetti è questo. Ora, adesso io le faccio una domanda: ma non sarebbe quantomeno giusto, di fronte a un contenzioso per il quale avete argomenti in mano, cioè avete un'interpretazione autentica, avete il parere formale dell'organo regionale dell'INEIL, quantomeno non sarebbe stato, secondo lei, civile fermare il monte interessi sulle cartelle esattoriali, visto che non è una vostra azione temeraria, ma avete degli atti in mano che vi consentano di battervi in giudizio? Fino a che parla il giudice, bisognava fermarlo il monte interessi, o no? Non lo possono fare, nel senso che, o meglio, noi possiamo chiederlo, come abbiamo chiesto tante volte anche degli incontri con l'INEIL, e devo dire, quando gli avete chiesto, cosa vi ha risposto l'INEIL? Allora, guardi, dell'istituto abbiamo trovato una persona disposta ad ascoltarci soltanto presso la direzione regionale toscana, il direttore, l'attuale direttore regionale toscana, è stato l'unico disposto ad incontrarci e a sincerarci di come si fosse sviluppata negli anni la nostra vicenda. Però al suo interessamento devo dire che non ha fatto seguito nessuna alcuna cosa. Allora, il nostro tempo è finito, io devo ringraziare, se ne d'accordo. Pensate, una vicenda che va avanti 15 anni di fronte a pronunze concrete, atti normativi precisi, e invece l'istituto chiede di pagare più di 3 volte di più, e nel frattempo ti arrivano le cartelle e tu devi pagarle. Ma che senso ha un paese così? Continuate su Radio 24.